America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Memorial Day Weekend, beh, vi ho fatto ascoltare una marcetta militare perché un po' dappertutto in America oggi, giorno di vacanza che ricorda tutti i caduti in tutte le guerre americane, giorno di vacanza che apre anche la grande stagione estiva americana, e poi la stagione ovviamente va avanti fino ai primi di settembre e si chiude con il Labor Day Weekend, che quest'anno cade il 7 di settembre, e cioè il giorno che celebra la festa del lavoro, la fine dell'estate e il ritorno se vogliamo lavorare. Dunque, parlando di estate, di questa stagione estiva, vorrei raccontarvi un po' quello che poi fanno gli americani durante l'estate, perché vanno a visitare i parchi, vanno in giro, fanno una serie di cose turistiche non diverse da quelle che facciamo noi, da quelle che fanno tutti in tutto il mondo, però vanno soprattutto ai grandi festival. Ci sono almeno 50 grandi, grandissimi festival, ma quando dico grandi, dico festival che raccolgono centinaia di migliaia di persone, un po' in ogni angolo d'America, dedicati alla musica, al teatro, alla danza, al cinema, all'arte. E dunque voglio darvi una piccola carrellata, perché se qualcuno di voi verrà in vacanza in America, saprà che ci sono delle destinazioni, potrà organizzare dei viaggi cercando di organizzare delle destinazioni là vicino a dove sta magari andando già per vacanza. E abbiamo un programma molto dettagliato che abbiamo su America 24 sul nostro sito, con un elenco di questi 50 e più festival, quelli più importanti d'America. Cominciamo con un festival musicale. As we can look each other in the eye, and in one single moment, we can create this beautiful, beautiful energy. Bonnaroo, Bonnaroo Festival a Manchester in Tennessee dall'11 al 14 giugno, dunque fra poco. Ci sono ogni anno 100.000 spettatori, e un festival musicale, è uno dei grandi festival musicali, si caratterizza per la durata di questi spettacoli che sono molto lunghi, e c'è un grande palco all'aperto con 2,8 chilometri quadrati di parco davanti al palco, che si riempie di persone. Ora dico 2,8 chilometri quadrati, beh, è uno spazio enorme. Chi ci andrà? Beh, i Mumford & Son, Kendrick Lamar, Billy Joel, Deadmau5. Questo festival è stato nominato da Rolling Stones come uno dei 50 grandi festival che hanno cambiato la storia del rock and roll, e secondo il magazine JQ è nei primi 10 festival del mondo. Lady Gaga, un Bad Romance al Summerfest del 2014, quest'anno non ci sarà, ci saranno altri artisti, vi dirò poi chi sono, ma il Summerfest è uno dei più importanti festival musicali americani, dal 24 giugno al 5 luglio a Milwaukee in Wisconsin, quindi siamo in pieno Midwest, è un'esperienza perché è sul lago Michigan, sulle rive del lago Michigan. Dura questo festival 11 giorni ed è il festival rock più importante in America. Ci sono, pensate, 900.000 persone, quasi 1 milione di persone che si ritrovano nel corso di questi 11 giorni per partecipare a queste performance che raccolgono 800 artisti, ecco, sono numeri per noi forse incomprensibili. Si va dal rock and roll al rhythm and blues, country e così via, c'è un po' di tutto. E quest'anno chi ci sarà? Beh, Rolling Stones, tanto per dirne uno, Zac Brown Band, Kendrick Lamar, Keith Urban, Ed Sheeran, Mavis Staples, Buddy Guy, Sheryl Crow e molti altri. Ma questi festival non sono soltanto musicali, c'è il Green River Festival a Greenfield in Massachusetts, qui non lontano da noi, dal 10 al 12 12 luglio, che è caratterizzato dalla presenza di mongolfiere. E ci sono decine, centinaia di mongolfiere, e da queste mongolfiere che si esibiscono, che fanno dei concorsi, vengono lanciati anche dei gadget, degli omaggi al pubblico. Summertime, beh, questo è un classico immortale. Ho proposto un'interpretazione di Ella Fitzgerald. Perché? Perché a Chicago dal 12 al 14 giugno c'è il Chicago Blues Festival, che è il più grande festival di blues del mondo. Siamo arrivati al 32esimo anno, ci saranno Buddy Guy, Taj Mahal Trio, Zora Young, Seal Johnson, e devo dire è davvero, insomma, è un grandissimo momento per il blues, che qualcuno magari lo mette un po' in secondo piano rispetto ad altri generi musicali, ma che resta una grandissima espressione dell'anima più profonda degli Stati Uniti d'America. Ma voglio parlarvi anche di Aspen, perché Aspen è un simbolo del Colorado. Aspen è il posto in cui anche da New York gli americani vanno, come molti da Roma, da Milano, vanno a Cortina, vanno a Courmayeur per passare alcuni dei weekend estivi. Lo stesso succede con Aspen. Si parte da New York e si va in montagna. Il posto è meraviglioso, attività culturali di ogni genere. Vi ho parlato del Festival di Musica Classica, ma per esempio l'Aspen Institute, che abbiamo anche in Italia, durante l'estate organizza dei ritrovi, dei dibattiti, delle tavole rotonde di politica internazionale, di economia, di fatti importanti per il mondo di altissimo livello. Quindi se vi capita di essere da quelle parti dell'America, quindi nel Colorado, nel New Mexico, cercate di fare una puntata ad Aspen. Infine Spoleto Festival USA. Ecco, qui per me è un po' una spina nel cuore, perché io andavo a Charleston in South Carolina, il festival quest'anno dal 22 maggio al 7 giugno, quando si chiamava Festival dei Due Mondi, con Giancarlo Menotti, personaggio straordinario che ho conosciuto molto molto bene, che aveva legato gli Stati Uniti e l'Italia con questo festival di Spoleto. Poi, come sempre succede, si litiga, non si sono messi d'accordo, il board di Charleston non andava d'accordo col board italiano, purtroppo Menotti è mancato, Menotti che faceva un po' da collante di questo grande festival, e c'è stata una spaccatura. La mia speranza è che queste divisioni possano essere superate e che si possa ricongiungere Spoleto Festival USA con il Festival di Spoleto, appunto a Spoleto in Italia. Ecco, su questa nota ottimistica, auguro a tutti in America e in Italia una splendida estate. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di estate, volevo, come dire, una canzone allegra, una canzone che appartiene alla mia primissima adolescenza, ma che è un'altra canzone come Summertime di Ella Fitzgerald, che è diventata immortale, secondo me, dei Mango Jerry, In the Summertime. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!